Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. La spedizione dei nazional bolscevichi in Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan dura 2 mesi. In 8 hanno accompagnato il capo. 8 ragazzi tipo Parà che una serie di fotografie pubblicate in Anatomia dell'Eroe mostra davanti ai carri armati insieme a componenti delle truppe russe di stanza laggiù. Durante una serata molto alcolica ho fatto vedere queste foto a uno dei miei amici e lui ne ha riso a crepapelle. «Ma fammi il piacere», mi ha detto. «È soltanto una combriccola di froci. Sono andati laggiù per metterselo nel di dietro in santa pace». Ho riso anch'io, non ci avevo pensato. Sinceramente non credo, ma chi può dirlo? Certo è che Lisa e le donne degli altri, se ne avevano, sono rimaste da brave a casa. Sembra però che Edouard non fosse tanto dispiaciuto per l'assenza della sua compagna, quanto per quella del mercenario francese Bob Denard, che aveva incontrato a Parigi e che aveva cercato di coinvolgere nell'avventura. Quel grande esperto di golpe, nonché di losche imprese in Africa, avrebbe potuto essere un aiuto prezioso per capire se c'erano i presupposti per operazioni di destabilizzazione. Purtroppo Bob Denard aveva altre gatte da pelare. Di sicuro Edouard, anche se non ha potuto destabilizzare granché, ha scoperto paesaggi che l'hanno incantato. Ha adorato l'Asia centrale, e non tanto, a dire la verità, i russi dell'Asia centrale, in teoria oggetto della sua attenzione, quanto gli uzbeki, i kazaki, i tagiki e i turkmeni, a proposito dei quali snocciola tutta una serie di stereotipi che sono, credo, altrettante verità. Popolazioni fiere, ombrose, povere, ospitali, depositarie di tradizioni di violenza e vendetta, a cui va tutta la sua simpatia. Partito sotto il segno di Gabriele D'Annunzio, Limonov torna sotto quello di Lawrence d'Arabia. Si sente un liberatore, non più di russi ottusi, ma di montanari, uzbeki o kazaki, che, dopo tutto, hanno anche loro motivo di avercela con i dittatori locali. Lui che, influenzato dagli amici serbi, era tanto ostile all'Islam, ora stravede per i musulmani e allarga questa improvvisa infatuazione persino ai ceceni, di cui esalta la frugalità, il talento per la guerriglia e una certa eleganza nella crudeltà. Bisogna dare atto di una cosa a questo fascista. Gli piacciono e gli sono sempre piaciuti soltanto quelli che sono in posizione di inferiorità. I magri contro i grassi, i poveri contro i ricchi, le carogne dichiarate, che sono rare, contro le legioni di virtuosi. E il suo percorso, per quanto ondivago possa sembrare, ha una sua coerenza, perché Edouard si è schierato sempre, senza eccezioni, dalla loro parte. Quando il secondo mandato di Yeltsin volge al termine, gli oligarchi si mettono alla ricerca di un successore altrettanto accondiscendente. Il più astuto di loro, Berezovsky, ha un'idea. Un cechista completamente sconosciuto alle masse, Vladimir Putin. Ex ufficiale dei servizi segreti in Germania dell'Est, ha vissuto un brutto periodo di crisi all'indomani della caduta del muro. E poi si è rifatto una posizione all'interno dell'FSB che dirige da un anno senza infamia e senza lode. Durante i vari incarichi ricoperti, ha dato prova di assoluta lealtà verso i superiori. Ed è su questa preziosa qualità che Berezovsky richiama l'attenzione dei colleghi. Non un'aquila, dice, ma ci mangerà in mano. Delegato dalla gang degli oligarchi, Berezovsky prende il suo aereo privato e atterra all'aerodromo di Biarritz, dove Putin sta trascorrendo la vacanza con moglie e figli in un albergo di media categoria. Quando l'oligarca gli propone l'affare, Putin risponde con modestia che non è sicuro di essere all'altezza. «Via, via, Vladimir Vladimirovich, volere e potere. E poi non si preoccupi, ci saremo noi ad aiutarla». Anticipiamo il seguito. Berezovsky, tanto fiero del proprio machiavellismo, ha appena fatto la peggiore mossa della sua carriera. Come in un film di Mankiewicz, l'ufficiale scialbo e ossequioso si rivelerà un'implacabile macchina da guerra che eliminerà l'uno dopo l'altro quanti lo hanno fatto re. 3 anni dopo l'abboccamento di Biarritz, Berezovsky e Gusinski saranno costretti all'esilio. Hadarkovsky, l'unico ad aver cercato di ravvedersi, provando a moralizzare la gestione del proprio impero petrolifero, verrà arrestato e, dopo un processo scandaloso, spedito come nel buon tempo antico in Siberia, dove, nel momento in cui scrivo, sta ancora marcendo. Gli altri si mettono in riga. Hanno capito chi comanda. Intanto però il pudico e modesto Vladimir Vladimirovich viene presentato al popolo da Yeltsin, che 6 mesi prima del voto lo designa suo successore. Le elezioni sembrano ormai una pura formalità, ma per essere sicuri che il nuovo arrivato vi prenda parte nelle vesti di salvatore della patria, non c'è niente di meglio che una bella guerricciola, anche stavolta in Cecenia. Il pretesto è una serie di attentati che nell'autunno del 1999 colpiscono alcuni edifici alla periferia di Mosca, provocando più di 300 vittime fra i civili. Circola il sospetto che gli attentati, attribuiti senza alcuna prova a terroristi ceceni, siano stati in realtà compiuti dall'FSB. Questa tesi è stata sostenuta pubblicamente dal generale Liebied, dal giornalista Artyom Baravik, dall'ex ufficiale degli organi Alexander Litvinenko e da mio cugino Paul Klebnikov. Tutti e quattro sono morti di morte violenta. Liebied e Baravik in incidenti sospetti. Litvinenko avvelenato con il polonio. Paul ucciso da una raffica di Kalashnikov. Paranoica, ma allo stesso tempo non inverosimile, la tesi sugli attentati del 1999 è ancora ampiamente diffusa tra i russi, i quali, ed è questa la cosa più strana, non ne sono più di tanto turbati e votano e rivotano in massa Putin, pur ritenendolo colpevole, o almeno capace, di un simile delitto. Ad ogni modo, qualche mese dopo il suo lancio in orbita, Putin non è più né pudico né modesto. Quando dichiara di voler inseguire i terroristi fin dentro i cessi, conferisce alla sua presidenza lo stesso tocco di classe che Nicolas Sarkozy ha dato alla propria con il famoso «togliti dai piedi stronzo». La frase di Putin diventa subito una battuta di rito fra i Nazbol. «Dai, passami la vodka, se no ti inseguo fin dentro il cesso». Come Berezovsky, neanche Limonov e i suoi sospettano ciò che li attende. Le cose vanno in fretta, molto in fretta. Poco prima delle elezioni presidenziali, il Ministero della Giustizia fa approvare una legge con cui vengono messi al bando l'estremismo e il fascismo, che il Ministero si riserva di definire, e comunica al Partito Nazional Bolscevico che il provvedimento lo riguarda direttamente. Eduard chiede udienza al ministro in persona, la ottiene, si mette giacca e cravatta, sostiene le proprie ragioni. Estremista lui, fascista, neanche per sogno. Il ministro lo ascolta, esprime grande stima per il suo talento, si mostra molto disponibile. 3 mesi dopo, però, scaduto il termine oltre il quale non verrà concessa più alcuna autorizzazione, cala la mannaia. La risposta è no. No, il Partito Nazional Bolscevico non ha più diritto di esistere. Frastornato, Eduard chiede un'altra udienza e con sua grande sorpresa la ottiene. Si rimette giacca e cravatta e stavolta non la tira tanto per le lunghe. In Russia, spiega il ministro, i partiti ammessi e registrati sono 130, fra i quali molti partiti fantasma che non hanno nessun iscritto. Non è questo il caso del suo, che ne conta 7.000. La situazione è semplice. Se viene messo fuori legge, il Partito Nazional Bolscevico sarà costretto a entrare in clandestinità. E allora lui, Limonov, non potrà fare più nulla se giovani preoccupati per l'avvenire del proprio paese saranno spinti a diventare estremisti o terroristi. Il ministro alza un sopracciglio. Mi sta dicendo che se il suo partito verrà messo fuori legge, ricorrerete alle bombe? Quello che le sto dicendo, risponde Eduard, è che se voi ci sbarrate la strada della legalità, noi ne prenderemo un'altra. Poco tempo dopo, Limonov viene convocato alla Lubianca da un ufficiale che gli dice, senza tanti giri di parole, di essere stato incaricato di occuparsi di lui e del suo partito. L'ufficiale non gioca a fare il protettore delle lettere, ma non è antipatico. Ulteriore conferma per Eduard che i cechisti sono meglio dei funzionari civili. Cos'è questa granata? domanda l'ufficiale, mostrando il logo di Limonka. Istigazione all'omicidio? Edward risponde che il modello è stato creato da fabbriche di armi russe e che riprodurne l'immagine non è, per quanto gli risulti, proibito dalla legge. L'ufficiale ride bonariamente, lascia a Limonov il proprio numero di cellulare e lo invita a contattarlo se gli dovesse capitare di notare, tra i giovani che gli girano intorno, elementi sensibili al fascino del terrorismo. «Non mancherò», risponde educatamente Edward. Quanto al terrorismo, sembra proprio che in tutta la sua storia, legale e illegale, il Partito Nazional Bolscevico non si sia segnalato che per azioni non violente. Non lo dicono soltanto i Nazbol e Edward, ma il potere stesso, che li ha processati e incarcerati per reati di poco conto, come aver berciato Stalin Beria Gulag durante un comizio dell'ex primo ministro Gaidar, o avere schiaffeggiato Gorbaciov con un mazzo di fiori, senza spine, precisa Limonov, ho distribuito un volantino intitolato Il nostro amico carnefice al termine della prima del film di Nikita Mikhalkov Il barbiere di Siberia. Il carnefice in questione era il presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev, mecenate del film, e il volantino che denunciava il destino poco invidiabile degli oppositori nel suo paese sembrava più un'iniziativa umanitaria che fascista, con la differenza che le organizzazioni umanitarie avrebbero prudentemente evitato di indisporre una figura così potente e unanimemente rispettata come Mikhalkov, che è ormai per il cinema russo ciò che Putin è per il potere, il Hasyain, in altri termini, il boss. La risposta al volantinaggio non si è fatta attendere. Una Molotov nel bunker. Gli Amonk fanno irruzione, portano via, picchiano e incarcerano i Nazbol presenti. Il tutto, Limonov non ha dubbi, su richiesta di Mikhalkov. A un'altra proiezione, due Nazbol lanciano per rappresaglia uova marce in faccia al regista, dopodiché vengono subito arrestati e condannati a 6 mesi di prigione ciascuno. 6 mesi non sono pochi per qualche uovo marcio, ma lo sono se paragonati alle pene inflitte nei paesi baltici, che Eduard, lo ricordiamo, ha individuato come zona di intervento prioritaria. La vicenda lettone è un tale groviglio di paradossi postcomunisti che secondo me merita di essere raccontata. Tutto ha inizio quando in Lettonia, un tempo provincia dell'URSS e ora Stato Democratico Indipendente, viene condannato e incarcerato un vecchio partigiano sovietico, eroe della Grande Guerra Patriottica e poi, fino alla caduta del muro, cechista noto per la sua ferocia. Guardando le cose da casa nostra, attraverso Le Monde, Libération, sembrerebbe un'igienica terapia storica. La società coltiva il dovere della memoria e chiede il conto al carnefice. Dal punto di vista dei Nazbol è un'ignominia, un insulto a 20 milioni di caduti in guerra e alle centinaia di milioni che hanno creduto nel comunismo. Per questi giovani romantici quella vecchia carogna del KGB è un eroe, un martire. E per manifestargli il loro appoggio, 3 Nazbol danno l'assalto alla chiesa di San Pietro a Riga, tirano una finta bomba a mano per allontanare i turisti e si barricano nel campanile da cui lanciano volantini. Così facendo sanno benissimo che cosa li aspetta. Un esercito di poliziotti con megafono che li esorta ad arrendersi, trattative, richieste che non hanno nessuna speranza di essere accolte, la liberazione del vecchio cechista, la rinuncia della Lettonia a entrare nella NATO e altre più realistiche, la presenza dell'ambasciatore russo nel momento in cui si consegneranno. Alla fine i 3 si arrendono. L'ambasciatore è sul posto, ma non fa nulla per tutelarli. I giovani sovversivi vengono malmenati come se avessero aperto il fuoco sulla folla, processati non per hooliganismo, ma per terrorismo, e condannati a 15 anni con il beneplacito delle autorità russe. Avete letto bene? 15 anni. La vicenda diventa ancora più ingarbugliata se si tiene presente che ormai anche il potere russo, contro cui si scagliano i Nazbol, non è più disposto a tollerare oltraggi al proprio glorioso passato. Putin dichiarerà praticamente guerra all'Estonia quando questa deciderà di sbarazzarsi di un monumento eretto in onore dell'Armata Rossa. In fondo, Putin e i Nazbol sono d'accordo, anche se naturalmente i Nazbol si suiciderebbero in blocco piuttosto che ammetterlo. Ma quando si tratta di lottare contro il terrorismo, per quanto innocuo esso sia, i cechisti russi lavorano gomito a gomito con i servizi lettoni e danno la caccia ai romantici difensori dei loro vecchi colleghi, ora perseguitati, senza farsi il benché minimo scrupolo. È una faccenda complicata, lo so. Scrivo questo libro proprio per sciogliere nodi del genere. Persino Edward, per il quale Dio sa se è mai stato un problema navigare in acque torbide, comincia ad averne abbastanza e a sognare aria pura e grandi spazi. Mosca è lugubre e lui comincia a pensare che forse si troverebbe meglio in Asia centrale. Ha voglia di organizzare un altro viaggio per studiare le possibilità di destabilizzare il Kazakistan e lì tenere un corso di sopravvivenza stile Rambo sulle catene montuose dell'Altai. È l'idea che si fa delle vacanze quest'uomo che non ne ha mai fatte. E mi tornano in mente le fotografie che ho visto di Stalin in vacanza in Abkhazia, sempre in stivali e giacca militare, circondato da uomini baffuti e vestiti come lui, i quali, seppur sapevano apprezzare la sedia a sdraio o un bagno in mare, lo nascondevano bene. Date un'occhiata alla carta geografica. Vedrete che la Repubblica dell'Altai, confinante con il Kazakistan, si tratta di territori 5 volte più grandi della Francia, è la zona più continentale del mondo, posta com'è alla stessa considerevole distanza dall'Oceano Atlantico, Pacifico, Indiano e Artico. Come la Mongolia, in cui il barone von Ungern Sternberg aveva fondato il suo ordine di legionari buddisti, l'Altai è una regione famosa per i paesaggi mozzafiato, elevati pianori, con l'erba alta piegata dal vento, e per la scarsa densità di popolazione. Lo spazio, il cielo e nessuno sotto il cielo. Alla fine dell'estate del 2000, pigiato con 4 dei suoi in una jeep che sobbalza su strade sconnesse, Edward si avventura in questo universo elementare quasi astratto. La loro guida, un tipo taciturno e impenetrabile, che si chiama Zalatarjov, ha localizzato fra le montagne del sud qualcosa che sembra corrispondere a quanto sta cercando Edward. Una specie di eremo di difficile accesso, lontano da tutto, e che potrebbe servire da campo di addestramento. Fra i Nazbol il campo di addestramento è un mito. Molti di loro sono fermamente convinti che Edward ne abbia già creati parecchi, ultra segreti, sul modello di quelli dei jihadisti in Pakistan. Lui non conferma né smentisce, ma non è vero. Per il momento non esiste nessun campo. Al termine di una pista, a 10 chilometri dalla frazione più vicina, e per coprire quei 10 chilometri ci vuole quasi un'ora, i viaggiatori scoprono un capanno di legno con il tetto mezzo sfondato e tele di plastica al posto delle finestre. 2 stanze, 4 letti e una stufa che sembra funzionare. Tirano fuori il materiale, sacchi a pelo e vettovaglie e si sistemano. La sera mangiano al sacco, sotto le stelle. L'incantesimo ha inizio. Il lirismo panteista non è il mio forte. Benché ami i paesaggi alpini, non sono a mio agio nel descrivere i fuochi a legna, i torrenti, le 1000 varietà di erbe, funghi e tracce di animali selvatici. Non mi dilungo dunque sulla vita da survival che dura, per quanto riguarda Edward, 3 settimane, durante le quali i ragazzi, oltre a praticare la caccia e la raccolta, si dedicano a esercitazioni di tiro e di close combat. Nessuno li disturba. Figlio del cemento, Edward scopre un mondo nuovo e la guida Zalatarjov, immersa nel suo elemento, si rivela un personaggio affascinante. In città Zalatarjov gli era sembrato un vecchio hippie di provincia, con capelli unti e bandana, che usciva dal suo mutismo soltanto per mormorare vaghe idiozie New Age in cui comparivano regolarmente parole come energia e karma. Il primo giorno, uscendo dal capanno, Edward trova Zalatarjov in meditazione nella posizione del loto, rivolto verso il sole che sta sorgendo. All'inizio sorride, ma bastano meno di 3 giorni perché avverta realmente le onde calme e positive che emana quell'uomo. Zalatarjov lo porta a pescare nei torrenti, gli insegna ad asportare le branchie dei pesci, a cucinarli, a scegliere le erbe e le bacche con cui condirli. Conosce la natura come nessun altro, ne fa parte, è quello il suo posto. Edward è quasi intimidito. Accanto a lui si sente come il viaggiatore troppo civilizzato di fronte al trapper mongolo Dersu Usala nel film di Kurosawa, che in passato ha visto e amato. Di Dersu Usala, Zalatarjov ha la statura bassa, gli occhi a mandorla, la laconicità. La sua forza e la sua malizia non si scorgono di primo acchito, ma una volta che le si è notate non si vede altro. E si capisce di aver corso il rischio di perdersi una persona straordinaria, una specie di maestro a suo modo. Accanto al capanno c'è una bagna, una di quelle saune rudimentali che servono da bagno in tutta la Russia di campagna. Si resta chiusi a sudare, fra quattro pareti di tronchi sigillati con il muschio, immersi nel vapore sprigionato da un focolare di braci e pietre roventi, su cui si getta di tanto in tanto un ramaiolo di acqua fredda. Non è che Eduard vada pazzo per la bagna. Può resisterci a lungo perché ha il cuore forte e se fuori c'è la neve non ha paura di uscire e rotolarsi a terra completamente nudo tra una sudata e l'altra. Ma a starsene seduto senza far niente si annoia subito e gli sembra di perdere tempo. Per Zalatarjov invece la bagna è quasi un rituale religioso e la guida riesce nell'impresa di convertire l'impaziente Eduard. La sera, dopo lunghe corse sulle montagne, ubriachi di fatica e di vento, passano entrambi un paio d'ore a bere vodka in una nube di vapore, a lasciar distendere i muscoli in silenzio, sereni e fiduciosi, e quando Zalatarjov ogni tanto pronuncia come un oracolo qualche frase sibillina di Lao Tzu, il suo autore prediletto, Eduard non viene neanche più sfiorato dall'idea che si tratti di una stupidaggine e si trova d'accordo con lui. Chi sa non parla, chi parla non sa. Il vecchio hippie parla poco, ma sa. Vive in armonia con qualcosa di più grande di lui e con cui anche Eduard, quando è in sua compagnia, si sente in contatto. Eduard è calmo, sta bene. Siamo ai primi di settembre. Comincia a fare freddo. All'alba salgono dalla vallata gelide brume. I sei eremiti cominciano a tagliare e immagazzinare legna per l'inverno. Perché, fin dalla partenza, l'idea è che tre Nazbol affrontino l'esperienza di un inverno su quelle montagne, completamente isolati dal mondo, appena la neve avrà reso la pista impraticabile. Sarà dura, ma entusiasmante, pensa Eduard con invidia. Resterebbe volentieri con loro se a Mosca non avesse un partito di cui occuparsi. L'accordo è che tornerà a prenderli in aprile, allo sciogliersi delle nevi. Controllano che vi sia una quantità sufficiente delle poche derrate indispensabili che non si trovano in natura. Zucchero, candele, chiodi, in un romanzo di Jules Verne, sarebbe l'occasione per una di quelle liste lunghe tre pagine che il mio protagonista ed io da piccoli leggevamo con il batticuore. Si salutano con abbracci virili. Poi Eduard e gli altri due riprendono la via per Berneul, il capoluogo dell'Altai, dove abita Zalatarjov, da cui si separano commossi. Eduard confessa al trapper che nel loro primo incontro non gli aveva fatto una grande impressione, ma che ha imparato a conoscerlo e che è orgoglioso di essere suo amico. Zalatarjov resta impassibile, gli occhi a mandorla immobili. «Ti ho osservato», dice Eduard, «tu hai un'anima, io non faccio politica, ma anche i tuoi ragazzi mi piacciono». «Se vuoi», dice Eduard, «quando torno ti porto una tessera del partito. Mi farebbe piacere». Per tutto l'inverno, da ottobre ad aprile, Eduard non fa che sognare l'Altai. Quell'inverno a Mosca è tremendo. Dopo la condanna del comando lettone, l'atmosfera nel bunker si è fatta plumbea. Un manipolo di Nazbol moscoviti, degli autentici kamikaze se si considera ciò che rischiano, decide di raggiungere Riga, ma viene arrestato alla stazione per possesso di droga, almeno secondo la polizia, e finisce a sua volta in prigione. I genitori dei condannati pensano che sia colpa di Eduard se i figli sono finiti male. Così vanno al bunker per insultarlo e minacciano di trascinarlo in tribunale. Un Nazbo della vecchia guardia, uno degli otto che ha preso parte alla grande spedizione in Asia centrale, viene pestato a morte nei dintorni di Mosca. Le indagini concluderanno che si è trattato di una rissa tra ubriachi e forse è vero, ma forse no. Un giorno Taras Rabko, il fedelissimo tra i fedeli, il terzo membro storico del partito, va da Eduard e gli annuncia tra le lacrime che molla tutto. Ha resistito più che ha potuto, ma ha famiglia, la carriera in magistratura non può continuare così. È l'inevitabile destino di un partito di giovani. Non appena gli iscritti cominciano a costruirsi una vita loro, se ne vanno. Anche Lisa, quella che somigliava a Dan Pariot in Nikita, ha lasciato Edward per sposarsi con un informatico suo coetaneo e avere dei figli. Edward l'ha sostituita con Nastia, una ragazza ancora più giovane, a dirla tutta, Nastia è minorenne, cosa che da un lato lo lusinga, dall'altro è un ulteriore motivo di paranoia. Nastia è scappata di casa per andare a vivere con Edward. Una sera, rientrando tardi, i due si accorgono che da loro c'è la luce accesa. Salgono le scale di corsa, aprono la porta, la luce spenta. Tutto sembra in ordine. E questo preoccupa ancora di più Edward, il quale non teme tanto quelli che entrano per portarsi via qualcosa, ma piuttosto quelli che qualcosa ce la lasciano. Lui e Nastia frugano dappertutto. L'appartamento è così piccolo che se gli intrusi avessero nascosto delle armi le avrebbero sicuramente trovate. Ma un grammo di eroina è anch'esso molto piccolo. Per coprirsi le spalle, Edward decide di avvertire il suo contatto all'FSB, quello che gli ha lasciato il proprio numero di cellulare. L'ufficiale non gli dà appuntamento nel suo ufficio alla Lubianca, dove pure Edward è già stato due volte, ma su una banchina della stazione del metrò, quasi fossero due cospiratori. Edward, come ho già detto, non lo trova antipatico e gli parla con franchezza, gli dice della visita notturna a casa sua, delle telefonate anonime che riceve, dell'impressione che una morsa si stia stringendo attorno a lui. L'ufficiale scuote il capo impensierito, come se fosse al corrente di quanto sta avvenendo e ciò non dipendesse da lui, ma da un altro servizio con il quale è in rotta. Sinceramente, azzarda Edward, che cosa ne pensa lei di questa storia di riga? Le sembra normale che la Russia abbandoni i suoi cittadini? L'ufficiale sospira. La pensiamo allo stesso modo, ma non spetta né a me né a lei decidere. È un affare di Stato. La verità, continua Edward, è che noi facciamo il lavoro che dovreste fare voi. Invece di perseguitarci, dovreste servirvi di noi, lasciarci fare quello che non potete fare voi. Edward è sincero. Non ha nulla contro gli organi, tutt'altro. Accetterebbe volentieri di lavorare insieme con il suo partito al loro fianco, come fanno Bob Denard e il suo squadrone di mercenari con le autorità della Francafrique. Ma l'ufficiale evita di rispondere, guarda l'orologio e si congeda. Nell'altai Edward sperava di tirare un po' il fiato, ma non è così. Per tutto il viaggio, 3 giorni in treno da Mosca a Novosibirsk, e poi da Novosibirsk a Verneul, come sempre in terza classe, si è sentito osservato, sorvegliato. Non devi diventare paranoico, ripete a se stesso come un mantra, ma non devi nemmeno dimenticare che spesso si fa bene a essere paranoici. Difficile in questi casi seguire la via di mezzo, raccomandata da Lao Tzu, che con l'influenza di Zalatariov è diventato il suo autore preferito. Andrà meglio, pensa Edward, quando sarò laggiù. È contento di ritrovare il trapper a Verneul, di fare la strada insieme a lui. Nel corso di quell'inverno spaventoso ha pensato spesso a Zalatariov ed è stato un pensiero rasserenante come la lettura di Lao Tzu, una vibrazione calma, silenziosa, la promessa di un possibile raccoglimento nel vortice dei marosi, in mezzo al baccano e alla furia del mondo. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011.